19 un minuto, sta per iniziare sulle 87.9 di Radio Onda Rossa una nuova puntata di Likewise. E cominciamo subito questa puntata in realtà con una notizia che volevamo darvi, insomma, in apertura del nostro programma. L'Egitto ha arrestato delle donne in protesta davanti alla sede delle Nazioni Unite al Cairo, donne che protestavano contro la guerra e il genocidio in Palestina, Gaza e in Sudan. La notizia, insomma, che sta girando su vari canali, io vi leggo così all'impronta dal Middle East Eye, che ha dato la notizia poco fa. Almeno tre attiviste di questo gruppo, ma in realtà probabilmente sono molte di più, perché di alcune di loro non si hanno notizie in questo momento, sono state arrestate durante le proteste di quest'oggi, appunto protesta convocata per chiedere la fine della guerra in Gaza e del conflitto in Sud. La sicurezza egiziana ha disperso la folla che stava protestando in solidarietà appunto a Gaza e fuori, come dicevo, agli uffici generali delle Nazioni Unite al Cairo. Molte attiviste sono state portate via. Dicevamo, ci sono alcuni nomi, ma insomma il numero delle persone, delle donne arrestate che facevano parte di questo gruppo, è abbastanza incerto. Durante la protesta le manifestanti hanno letto una lettera indirizzata alle donne delle Nazioni Unite condannando le violazioni dei diritti umani e i crimini di guerra che sono inflitti alle donne a Gaza e in Sudan come appunto risultato di questi conflitti. La lettera, ne leggiamo un pezzettino, dice: care donne delle Nazioni Unite, siamo un gruppo di donne egiziane sconvolte dalle atrocità commesse contro le nostre sorelle a Gaza, a causa di questo conflitto e del genocidio che Israele sta perpetrando contro la popolazione palestinese dal 7 ottobre. Siamo anche sconvolte dal fallimento delle Nazioni Unite di qualsiasi forma di protezione nei confronti delle popolazioni sconvolte di quello che succede, i crimini di guerra che si permette di accadere, specialmente crimini sessuali e in particolare contro appunto lo scambiare e il continuo, diciamo, scambio tra chi è vittima e chi è carnefice di questa guerra. La lettera accusa le donne delle Nazioni Unite, UN Women, di discriminare contro le donne in Gaza e in Sudan, non facendo assolutamente abbastanza per proteggerle. Quindi in questo momento le notizie sono molto molto incerte. Sappiamo solo che alcune di queste manifestanti sono state arrestate, non sappiamo quante, non abbiamo ancora notizie. Sappiamo appunto che alcune avvocate hanno cercato di contattare le loro assistite, ma in questo momento non ci sono notizie, quindi se ne arriveranno e se qualcun ha notizie di quello che sta accadendo, in qualsiasi momento può chiamare la radio 0649 1750 e in diretta appunto possiamo raccontarle. Quindi ben trovate a tutte e a tutti, sta per iniziare quindi la puntata numero 84 di Likewise, ben trovate. I nostri riferimenti penso che ormai li sappiate, il numero di telefono ve l'abbiamo appena detto, 0649 1750. Se volete seguirci su Telegram, Likewise -TRX, se ci volete scrivere è likewise@ondarossa.info. Tutti i nostri podcast sono sul sito della radio, ovviamente ondarossa.info, o basta che cercate Likewise e li trovate. E sul sito della radio è attivo il radio abbonamento di quest'anno DigiLore, la radio si sta impegnando a ampliare il suo bacino di utenza e comunque a stare a passo con quelli che sembrano i cambiamenti che avverranno nella radio del prossimo futuro, ovvero il DAB. Siamo già in DAB a Terni e salutiamo tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori che ci ascoltano da lì in questo modo, e siamo comunque in analogico sugli 87.9 in modulazione di frequenza, e per mantenere insieme queste cose e portare avanti tutta la radio abbiamo molto bisogno di voi, perché come sapete in questa radio non ci sono sponsor, non c'è pubblicità, non ci sono padroni, non ci sono padrini, e quindi ci servono i soldini per pagare le bollette. È sempre difficile passare da notizie del genere alla musica, però lo sapete che per noi la musica non è soltanto un, diciamo, è una parte del nostro divertimento, giustissimo, ma è anche una forma di protesta, è una forma di racconto di quello che succede nel mondo. Partiamo col primo pezzo. Loro sono Jen and the Degenerates, Anti-Fan Propaganda. Questa è una di quelle che ti piacciono a te, Pinklo, che finiscono così col botto. Jen and the Degenerates, Anti-Fan Propaganda. Era un po' che non iniziavamo col punk, però. Vero? Singolo che apre l'album di debutto per questa giovanissima, proprio generazione Generation Z. Ma io con queste lettere mi sono persa, penso, 20 anni fa comunque. Quell'ultima, insomma. Giovanissima band inglese, l'album si intitola come questo pezzo, Anti-Fan Propaganda, è uscito per la Spatial Aid Audio lo scorso febbraio. Sì, l'album di debutto, che dire, sono questa band di Liverpool, capitanata da lei, 22enne, che sentivate cantare, Genevieve Glynn Reeves, in arte Jen, queer, e appunto la sua fida band di degenerati, Sean Sloan, Jake Johnson al chitarra, Jay Humphrey al basso e Ivan Reeves alla batteria. Fanno questo suono, questo pezzo è particolarmente, diciamo, di ispirazione punk, però in realtà il disco è molto molto vario, ci sono anche altre sonorità più garage, cioè più indie rock, alternative rock, quindi questo pezzo è smaccatamente punk, molto bello, ma il disco è un po' più ampio nelle sonorità, non è tutto così. I testi appunto riflettono sulle brutture di questa nostra società, sul declino del mondo occidentale, sulle difficoltà dei ventenni di oggi, e chi meglio di una 22enne ce ne potrebbe parlare, e sull'alienazione del narcisismo dato dai social, dall'era dei social network. Non si prendono troppo sul serio, però nel mentre danno e lanciano questi messaggi molto molto chiari, come il pezzo anche che abbiamo ascoltato in realtà. E il disco si apre con questa frase qui, che è: la verità è che il mondo sta finendo, che me la sento abbastanza anche molto vicina, perché credo di averlo detto pure io qualche volta. E ho cercato di leggere un po' di interviste, perché mi stai guardando così. No, vabbè, così va bene. Ho cercato di leggere un po' di interviste, ma perché ero curiosa di vedere se qualcuno gli avesse chiesto se insomma si erano ispirati alla frase di Emma Goldman: se non posso ballare, allora non è la mia rivoluzione. Perché sembra molto un po' anche la loro idea. Sì, con l'altro pezzo, Kids Wanna Dance, no? Anche questo pezzo in realtà è molto interessante, appunto perché tratta, come dicevi, temi generazionali. Anti-fan propaganda si riferisce al fatto che questo tipo di generazioni vengono criticate perché non fanno niente, fanno cose assolutamente noiose, si annoiano sempre, non fanno niente di interessante, bla bla bla. E quindi chiaramente, insomma, il messaggio è questo, molto efficace, devo dire. Esatto, molto efficace. Loro, questo è l'album di debutto, quindi in giro hanno un altro po' di singoli, un EP che è uscito nel 2022, Only Alive When In Motion, e insomma, se vi sono piaciute andatele a cercare. Questa è Likewise, questa è Radio Onda Rossa, il secondo pezzo della scaletta di Likewise di oggi, numero 84 abbiamo detto, vero? L'hai detto? Pare sicuramente sì, l'hai sì. Detto. Lei si chiama Reina Tropical, Cartagena. E questa era la voce e la musica di Reina Tropical. Il pezzo era Cartagena, tratto dall'album di esordio Malegria, uscito l'11 aprile scorso per la Psychic Hotline. Questo album di debutto, che si chiama Malegria, il nome viene da una canzone di Manu Chao degli anni 80, insomma dall'album, sì, forse l'album 98, più famoso, insomma, di Manu Chao, no? Clandestino penso che fosse il nome. Devo dire che la storia di Fabi Reina, che è appunto la voce e la musicista che avete ascoltato, è una storia molto complicata, molto particolare, ed è lei è una gran figa, fa delle cose bellissime che ci piacciono molto. Intanto magari vogliamo raccontare il progetto Reina Tropical. Era in realtà un duo, sì, è stato un duo fino a 2 anni fa, finché appunto il partner musicale di Fabi, ossia Sumo Hair come era conosciuto, non è morto in un incidente stradale. E quindi molto del materiale era già, diciamo, in elaborazione, in costruzione per questo appunto debutto di questo duo, che però già faceva tante cose insieme, già si esibiva, e chiaramente, insomma, dopo questo evento così tragico, insomma, c'è stato un po' di tempo, è stato necessario un po' di tempo per elaborare. Anche in realtà Fabi ha fatto molte cose, ci sono stati molte feste, molti eventi in cui si è ricordato questo musicista, che musicista e DJ, che insomma ha avuto una grande importanza, almeno nella scena di Los Angeles, per diciamo il lavoro sulla musica tropicale, su tutti i suoni di alcune parti del mondo, e nel buttarli dentro anche nella musica che si ascolta quando si balla. Sì, tra l'altro infatti lui aveva cofondato Dinamita, che era una delle prime serate delle feste di cumbia a Los Angeles, e anche aveva fondato un collettivo che si dedicava a sensibilizzare e alla raccolta fondi per le comunità emarginate e sottorappresentate in tutta l'America Latina, quindi era super super attivo. Loro sono, insomma, due della diaspora, vengono entrambi dal Messico. Esatto. E insomma hanno sempre questo, anche nel loro progetto c'era questa, insomma, questa malinconia di sottofondo, e anche questa voglia invece di portare i suoni di tutta l'America Latina, non solo del Messico, nella loro musica. E lei un po' ha continuato poi a fare questo quando si è un po' ripresa dalla botta di dolore. In più, ha recuperato le cose e ha fatto questo disco. In più, come dici tu, a questo si aggiunge anche l'essere da parte di entrambi queer e far parte del mondo queer, e quindi di unire anche questo al recupero di una certa musica, di una certa sonorità, e di portarla all'interno delle comunità queer. Fabi è anche un personaggio molto interessante, perché lei è una cofondatrice di un progetto che si chiama She Shreds, che in italiano si potrebbe tradurre tipo lei spacca, fondamentalmente lo potremmo tradurre così, che è appunto stato per tanti anni, fino a 4 anni fa, una rivista cartacea, insomma, dedicata alle chitarriste e alle bassiste, diciamo un po' come posso dire, ispirata, l'idea ispirante di questa rivista era quella di mettere in evidenza le musiciste, in particolare appunto le chitarriste e le bassiste, di raccontare le loro tecniche, i loro strumenti, il loro rapporto con i loro strumenti. E se volete approfondire, insomma, perché She Shreds non esiste più in cartaceo, ma esiste come magazine online, insomma, si chiama She Shreds Media adesso, insomma, fanno molte cose, ci sono articoli, ci sono recensioni, cose molto belle. E se volete leggere qualcosa per farvi un'idea di cos'è She Shreds, andate a leggere la lettera scritta da Fabi Reina, di saluto, insomma, del formato cartaceo, in cui racconta che cosa si propone She Shreds, e dice, ve la faccio breve, ma insomma è molto divertente, perché lei dice, se qualcuna vuole cominciare a suonare la chitarra, suonare il basso, quello che fondamentalmente si trova davanti, due opzioni: o diventare come Eric Clapton, Eddie Van Halen o Slash, oppure diventare, diciamo, quello che è nella foto che c'è appunto sul sito, e cioè una tipa che pubblicizza una chitarra nuda che non c'entra niente con quelle che potrebbero essere le sue abilità. E lei giusto dice, come una queer messicana americana, io non mi identificavo con nessuna di queste due possibilità, e quindi ho dovuto in qualche modo lavorare e inventarmi anche un modo per proporre un'altra immagine. Quindi, insomma, un personaggio molto interessante. Non date per scontato questo album, no, che esatto, sembra dalle sonorità esatto. Sembra leggero, ma non lo è, e tra l'altro ha delle sonorità molto ibride, piene di suoni che non sempre frequentiamo, perché appunto vengono da tutta quella parte, anche le strumentazioni, il soukous congolese, le percussioni afro-colombiane, la cica peruviana. Quindi è un album che sembra leggero, ma in realtà è molto denso e pieno anche nei testi e nella musica di cose particolari. Tra l'altro ci sono ancora degli audio di Somo in questo disco e poi c'è tanta natura, perché ci sono delle registrazioni nei campi degli uccelli, delle maree, insomma, che sono quelle cose che piacciono a me. Tipo sotto mi sa che ne abbiamo un esempio più o meno, cioè è già partito il prossimo pezzo, però anche c'era, ci sono molte, perché molte c'è tanta natura, cose. È vero, in giro per questi album che di questa settimana sarà il tema, sai, perché era il giorno della terra, quando è stato ieri. Ah, dici che sarà per questo? Non lo so, è successo. Sai che a noi con le ricorrenze non ce ne frega niente, però evidentemente ci facciamo influenzare. No, è andata così, chissà come mai. Allora ascoltiamo il prossimo pezzo. Moise Pardo Glass, Weather Underground. Esplosione di jack finale. Maurice Pardo Glass, Weather Underground, diciamo diversi elementi, quattro in tutto, della famiglia di All Sounds, che si sono unite per fare questo album molto molto bello. È un, anche perché è un mix veramente di tante cose, cioè del folk, cioè della elettronica spinta proprio, insomma, sperimentale, cioè veramente di tutto. E, mi piace dire riguardo a questo questa scelta del nostro terzo pezzo di oggi, che l'ha ispirata a un'altra trasmissione che c'è qui su Radio Onda Rossa, che vi consigliamo di ascoltare ovviamente, perché poi è bello anche ascoltarsi certo. reciprocamente, che si chiama Black Hat, che va in onda il mercoledì, giorno insomma successivo al nostro, dalle 13.30 alle 15.30, ed è molto divertente perché qualche settimana fa, il 3 aprile in realtà, nella puntata del 3 aprile Black Hat mandava in onda Anna Lua Caiano, che noi avevamo messo il giorno prima, e poi appunto mandava questo bellissimo pezzo di Moïse che volevamo riproporvi anche noi, perché l'album vale veramente la pena. Sì, l'album si chiama Paris Paris Texas Texas, un po' ispirato in qualche modo a quel film dell'84 di Wim Wenders, Paris Texas. La O Sounds è un'etichetta in realtà italiana, fiorentina. Lui che tra l'altro è Pardo, che è il fondatore della label e nonché quello che sta suonando le chitarre in questo progetto. Il progetto era dei Casino Royale, e il progetto era nato appunto come un momento, cioè un'idea di registrare insomma le chitarre acustiche ed elettroniche in un con questa ambientazione elettronica, per questo ci sono i Glass. Poi alla fine hanno coinvolto anche Morese, e un po' secondo me si è ancora, ha cambiato ancora panorama ed è diventato ancora più affascinante, credo, perché ci sono tutte queste sonorità che poi porta, che sono, sembra il deserto, cioè luoghi molto ampi e lontani in qualche modo. Sì, è vero, insomma, lei dà un respiro. Perché lei è texana, se no non si capiva in che senso. Ed è una multistrumentista che sicuramente vi faremo ascoltare in altre occasioni a questo punto. Sì. Direi, no? Lasciamo un po' di. Sì, perché ha pubblicato un disco nel 2022, Strawberry Season, un EP, Crying Poem, sempre lo stesso anno. Noi non l'avevamo nei radar, non c'era finita, però il bello di ascoltare, ascoltarsi nella radio, ascoltare cose diverse, che poi qualche volta capita che si scoprono cose che sì, non si erano trovate. Senti che bello. No, infatti, lasciamo così e andiamocene. Lasciamo in loop. Sono le 19.28, quelle che state ascoltando, Radio Onda Rossa. Chi sta trasmettendo è Likewise, la nostra puntata numero 84, oggi 23 aprile, siamo in diretta, è vero, è verissimo. Passiamo ancora da un'altra parte del mondo, andiamo in Indonesia con una band che si chiama Laher, il pezzo si chiama Talalu. tutto molto difficile con questo gruppo da pronunciare. L'Air Tatalu è il titolo del singolo di questa band, che no, la pronuncia l'avevo trovata, è L'Air. L'Air, ok. Il titolo dell'album da cui è tratto questo singolo si chiama Ngelar, spero di aver dirlo bene, uscito alla fine di fine febbraio scorso, che è appunto il secondo album di questo di questa band, un sestetto che pare, insomma, visto che io non conoscevo questa band prima, quindi non mi sono addentrata nelle loro produzioni precedenti, ma insomma sia un po' anche l'album in cui affrontano delle tematiche e utilizzano anche delle sonorità che diciamo in qualche modo riprendono delle sonorità tradizionali e le ripropongono in una chiave rivisitata, quindi insomma uno studio, anche un lavoro anche sulla musica molto interessante. Sono in giro da tipo 2018, insomma. Sì sì, non sono in giro da tanto. In realtà questo disco è stato composto insieme alla cantautrice Monica Apsari, che ha co-scritto e co-composto tre delle canzoni dell'album, che comunque non sono appunto poche, poi sono anche pezzi molto lunghi, e Daogo Kurosawa, che ha diretto il progetto come produttore. E sì, sono è un album che appunto raccoglie i canti dei rituali, delle tradizioni del raccolto, l'invito alle preghiere verso insomma la terra, un tempo prospera. Anche qui si parla insomma di quello che sta facendo la massiccia industrializzazione a tutta quella parte lì perché loro sono della Giava occidentale in Indonesia, Gitawangi penso si dica, ed è un album insomma contestualmente sia molto doloroso che anche allegro, che commemora la vita. In realtà tipo Ngelar significa tipo fare festa, stare tutti insieme, in qualche modo suonare, e almeno per come lo raccontano loro stesso sul loro Bandcamp, non sono esperta della lingua. Ma è un disco che è molto interessante. Poi non lo so, è un periodo che mi piace molto spaziare su suoni e sonorità di paesi un po' più lontani, insomma, anche dalla nostra, diciamo, abitudine musicale occidentale in qualche modo, perché ti aprono a paesaggi diversi e poi ti raccontano in situazioni diverse, contesti diversi. È molto molto interessante. Sì, lo è, insomma, nelle ultime puntate poi insomma stiamo un po' spaziando molto nella, diciamo, sì, nella parte asiatica che non sempre battiamo. Sono le 19:34 qui da queste parti. Ora torniamo a Londra invece. Torniamo a Londra. No, vabbè, ma lo sai che insomma io adoro andare in giro e poi tornarmene nella pioggia. Lei si chiama Ella Smoker, in arte Glam, Easy Fun. Take your own, you're anxious, just to be away and balance. Glam Easy Fun, tratto dall'album The Golden Dream, uscito il 29 marzo scorso per la Secretly Canadian. Grazie Pinkolo che non me lo ricordavo e me l'hai suggerito. 21 anni per Ella Smoke, che, diciamo, nata a Londra, cresciuta a pane e rockabilly e credo anche emo, probabilmente c'è un po' di tutto nella sua musica, e devo dire questo album è interessante, ci sono delle belle ispirazioni. Ha, diciamo, attirato l'attenzione su di sé durante la pandemia, insomma, quando molte musiciste giovani, insomma, allora aveva qualcosa come 17 anni, immagino. No, 17. Ah, ok. Immagini, insomma, giusto. Immagino giusto, con un pezzo che si chiamava Why Don't I Care, che ha fatto sbaccato milioni e milioni di visualizzazioni e ha attirato l'attenzione anche di altre musiciste che ci piacciono, così, giusto per dirne una, Adrienne Lenker, e quindi la Secretly Canadian se l'è subito accaparrata. E ha pubblicato anche Likewise, ovviamente. Anche Likewise, ovviamente. Ha pubblicato due EP, Once the Age Has Worn Off nel 2021 e Wake Teeth nel 2022. Si è concesso qualche mese di pausa per lavorare appunto a questo album di debutto che poi è uscito quest'anno. Che dire, dalla bedroom, perché siamo lì, era quello il senso, però se sentite il disco, in realtà, forse anche con l'aiuto della produttrice Karma Kid, è riuscita a tirar fuori anche altre sonorità, a tirare fuori un po' lei, giovanissima, in qualche modo dalla sua comfort zone della chitarra ai bordi del letto a suonare i pezzi. E il disco, anche il pezzo che abbiamo sentito, si vede, c'è un bel arrangiamento, comunque è molto più suonato e anche molto ricco, non è soltanto canzoni acustiche, ecco. Non lo so se questo era un giudizio positivo. Andiamo ad ascoltare. Ancora non è deciso. Andiamo ad ascoltare, insomma, un lieto ritorno da queste parti. Lei si chiama Letizia Sadie, un hot attento. Tizia Sadier, un'altra attente, non so se lo pronuncio bene ma va bene uguale. Rooting for Love è il titolo dell'album, del quinto album da solista della nostra Letizia. Diciamo da solista, quando non suona con Stereo Lab, è uscito il 23 febbraio scorso per la Drag City ed è un album che ci ha messo un sacco di tempo per essere preparato e poi finalmente insomma ad uscire. Cominciato... Beh, direi. No, nel senso che l'ultimo disco comunque è uscito 7 anni fa, che era Find Me Finding You. Sì, in realtà in qualche modo questo lavoro è cominciato, o comunque la Sadie ha cominciato a parlare di questo album nel 2021, quindi insomma un po' di anni fa, 3 anni fa, ed era uscito un singolo, poi insomma sarebbe dovuto uscire nel 2022, poi non è più uscito, insomma, quindi ci sono state varie vicissitudini che hanno fatto un po' ritardare questa uscita. Devo dire che Letizia a me fa sempre lo stesso effetto, a parte che le voglio bene, vabbè, ma quello è un fatto personale. Mi fa sempre questo effetto, la metti su la prima volta, la senti e dici, cioè vabbè, no, Leti, insomma, poi a un certo punto piano piano te piglia, esatto. E niente, e io e bene, è così, esatto. Cioè, come ti catapulta in questo mondo, capito, un po' cinematico, in questo film che non si sa bene dove è ambientato, un po' in bianco e nero, così, e niente, ci devi stare, così. Che è poi la forza della sua musica, no? Trasportata. Sì, anche quella degli Stereo Lab, che in realtà non incidono. Comunque un disco dal 2010, l'ultimo che era uscito, e che è lo stesso anno in cui è uscito invece il suo primo disco solista, che era The Trip. Lei ovviamente canta, scrive, suona la tastiera, le percussioni e la chitarra. Quindi direi che alla autarchia stiamo abbastanza messi bene. Se la cava. Sono le 19.44, dai che siamo belle presenti oggi con la scaletta. Sì, sì, siamo giuste. Riusciremo a farvi ascoltare 10 pezzi, che è sempre il nostro obiettivo iniziale, che non sempre ci riesce. Ma non ci perdiamo appunto in chiacchiere, perché poi finisce che pensiamo di essere in orario e finiamo sempre in ritardo. Ci ascoltiamo, ci spostiamo da un'altra parte, in Estonia in realtà, anche se poi adesso lei vive a Londra. Comunque lei è di origini russe, però è cresciuta in Estonia, a Tallinn. Si chiama Lolina e il pezzo è Easy Rider Geneva Hat. You should have known, by the way I parked my car sideways, that it wouldn't last. 'Cause I'm the kind of girl that likes to change her name often and get away fast. An easy rider, remember how we blew it that one time. Never mind, the only thing in life that it's worth doing again is try. You should have known, by the way I wear my hair sideways, it's from the past. 'Cause I'm the kind of girl that likes to change her style often. I like my fashion fast. An easy rider, remember how I blew it that one time. Never mind, the only thing in life worth doing again is trying. E ci ha preso un po' così la fine di questo pezzo. Ci aspettavamo almeno altri 30 secondi. Easy Rider Geneva Heat, Lolina, appunto, uscito per la Relaxing Records il 22 marzo del 2024. Unrecognizable è il titolo dell'album. Allora, che dire di questa musicista? In realtà lei ha tanti progetti, si chiama Alina Astrova, ma ha tanti progetti che che pubblica con nomi diversi. Uno tra questi è Inga Copeland, forse quello è più sì. è quello con cui è più conosciuta. È una musicista, insomma, una sperimentatrice. Potete ascoltare veramente tantissime cose diverse di sua produzione se andate sulla sua, appunto, sulla sua pagina Wikipedia, ma insomma, oppure sul suo Bandcamp, potete guardare appunto tutte queste produzioni che si alternano, che sono molto interessanti. Sì, e non anche sta mai la fermo. Storia di questo Unrecognizable è una storia abbastanza interessante, ispirata, diciamo, sembra essere un disco in, diciamo, diviso in tre parti, di cui questa appunto la terza parte, che inizia, o comunque inizia, ispirandosi ad una graphic novel. Ah sì, è vero, l'avevo letto, che in realtà il disco è diviso in tre parti. La prima è tipo una graphic novel, la seconda non mi ricordo già più, ma l'avevo letto. Cioè, nel senso, la prima sì, si cioè, ispira a una graphic novel ed è diciamo, è stato pensato, si chiama la prima parte si chiama Eiffel Child, è stato pensato come un suono interattivo, cioè una colonna sonora interattiva, esatto, di questa graphic novel. E poi da lì, in qualche modo, Lolina ha continuato a lavorare su questo, diciamo, progetto abbastanza interessante, che appunto mescola argomenti, cioè, come posso dire, questioni come la guerra, come l'oppressione, la repressione, eccetera eccetera, spostata, diciamo, fisicamente in diversi luoghi, appunto, fino a finire in qualche modo nel Geneva Heat, che è il titolo di questo pezzo. Comunque potete ampiamente esplorare la sua discografia, che è effettivamente molto ampia. Questo è in qualche modo il suo settimo disco uscito come Lolina, che tra i sette dischi, tra l'altro, ci sono diversi dischi live, quindi probabilmente di performance fatte, di concerti fatti, anche perché credo che non sia mai uguale a se stessa, quindi anche questa, i concerti in qualche modo siano un modo per fermare un punto, un momento della produzione. Non a caso ne sono già usciti su sette dischi che ha pubblicato, due, tre sono già, cioè sono dei live. Quindi è evidente che il suo sperimentare musica, tra l'altro dal vivo, probabilmente la rende molto interessante da andare ad ascoltare. Chissà se mai arriverà dalle nostre parti. Noi lanciamo sempre una voce, non sembra che qualcuno avesse voglia di portare qualche artista un po' più fuori dai canoni ufficiali. Vai! Dai canali ufficiali. Vai con la prossima. Ci spostiamo in Svezia. Loro sono un gruppo, si chiamano Dina Ogon, e il pezzo è Death Lacker. Yeah. Questa era Dina Hogan, That Laker è il titolo del pezzo che Pink lo ha scelto per voi. Orion è il titolo dell'album uscito il 2 febbraio scorso. Ti stai dissociando pubblicamente. Playground che... Music. No, in realtà è che ho ascoltato l'album soltanto una volta, quindi per me è un po' troppo basic, però probabilmente è perché non l'ho ascoltato bene, quindi non mi pronuncio. Vabbè, loro sono un gruppo svedese che suonano principalmente, come avete potuto sentire, soul, rhythm and blues, folk, influenze jazz, un po' di bossa nova e tutto questo in Svezia. Si conoscono da tantissimi anni, quasi 15, hanno suonato in vari modi, in varie formazioni, hanno fatto tante cose insieme. Alla voce c'è Anna Hallud, insieme a Christopher Cantillo alla batteria, Daniel Ogren alla chitarra e Love Orsan al basso, ma sono usciti appunto con questo progetto insieme nel 2021, debuttando con un disco omonimo. Questo, che questo pezzo che abbiamo ascoltato fa parte invece del terzo album che è uscito a febbraio di quest'anno, che sono di 9 tracce, il disco si chiama Orion. Prossimo pezzo, veloci veloci, lei è Nadine Shah, I Drive, I Shoot. C'è la musica di Nadine Shah, A Drive, A Shoot, tratto dall'album Filthy Underneath, uscito il 24 febbraio scorso per una major, quindi non lo diciamo. È il suo quinto album in studio di questa appunto musicista inglese che diciamo ha rischiato anche di non farlo questo album, insomma, anche perché tra una cosa e l'altra ha anche tentato il suicidio, quindi insomma le sono successe di tutte e di più negli ultimi 4 anni, ma per fortuna la musica, come spesso raccontiamo da queste parti, aiuta a guarire, a superare molte, anche molte difficoltà e anche a vivere. E come dice il titolo, Filthy Underneath, lo sporco che c'è sotto, no? In qualche modo viene fuori attraverso appunto anche un po' la forza depurativa della musica. È un bell'album molto intenso, tra l'altro Nadine Chan, che negli ultimi anni insomma non è che ci avesse fatto proprio impazzire, secondo me ha ritrovato un po' di quella che era la sua vena iniziale, anche proprio il modo di usare la voce in maniera un po' più più cruda rispetto ai suoi tentativi precedenti, quindi secondo me lo risentiremo questo album a un certo punto. Sì, noi l'avevamo già in realtà preannunciato perché avevamo ascoltato Nadine Shah nella puntata numero 67 con il singolo che annunciava esattamente questo disco qua. E in realtà sì, io l'ho riascoltato questo pomeriggio mentre preparavo un po' di cose delle puntate. Il disco è molto bello, molto insomma... vario, molto interessante, per nulla scontato. Molto bello. E poi lo sapete che voi potete raccontarci anche quello che vi fa, l'effetto che vi fanno alcuni dei dischi che vi suggeriamo, se vi va di ascoltarli, scrivendo a likewise@ondarossa.info, che è un altro dei riferimenti insomma che avete da utilizzare. Ultimo pezzo della scaletta, veloce. Warren Dunes, Freestyle Day Spa. Growing up is hard, growing up is fun, growing up is all you've ever done. Teacher said to work, teacher said to try, teacher said to never ever lie. Someone said to stop, someone said to laugh, someone said to put your feet to bath. There's plenty of ground left, there's plenty of ground left here. Hearts will learn to love, hearts will learn to hurt, hearts will learn to eat a peck of dirt. Plenty of time that questa era Warren Dunes con il pezzo Freestyle Day Spa, tratto dall'album che uscirà il prossimo 11 maggio, che si intitolerà Aquamarine e che è il secondo album di questa band. Esatto, questa band che è composta da Giulia Massey alla voce, come avete potuto sentire, ai testi, e dai fratelli Jared e Dominique Cortese. Lei in realtà ha fatto milioni di cose, nel senso che ha registrato anche tantissimi dischi da solista mentre era studentessa in Colorado, poi si è trasferita a Brooklyn, ha inciso un altro album, Moon and the Stars Convene. Poi l'anno successivo ha girato gli Stati Uniti con un camper alimentato a olio vegetale. ha girato anche un documentario che a questo punto vorrei anche andare a vedere perché sono curioso, The Break Free Project. Poi ha vissuto in una foresta nazionale in Colorado, dove ha scritto il suo un altro disco, Out, e poi è andata verso ovest e verso la scena di Seattle, dove non sappiamo per quanto tempo si fermerà. Nel mentre che si è fermata nella scena di Seattle, ha conosciuto appunto Jared e Dominique Cortese, che stavano in un'altra band, poi insomma si sono iniziati a frequentare tra di loro. Tra l'altro lei si è anche sposata con Jared, che era il cantante dei Jesus Rehab, e insomma in questo momento sono tutti felici e contenti a Seattle. Fanno questa musica art rock, indie pop, psichedelia, tropicalia, come avete potuto in qualche modo sentire dal pezzo che abbiamo mandato, e ve li consigliamo, il loro debutto discografico dell'anno 2021 con Get Well Soon. E prima di lasciarvi volevo dare un'altra notizia delle nostre amatissime Lambini Girls, che continuano a boicottare festival e raccontando il perché. In questo caso non diciamo il loro racconto di non apparire, la loro decisione di non apparire al Great Escape Festival quest'anno. Uno degli sponsor del Great Escape Festival è la Barclays, appunto la banca, che è una delle maggiori finanziatrici di compagnie che forniscono tecnologie militari ed armi ad Israele, insomma alle forze israeliane. Quindi come dicono appunto loro, aiutando, contribuendo a perpetrare l'orrore che sta accadendo, che sta avvenendo nella Palestina. E quindi appunto ci piace ricordarlo quando arrivano queste notizie, e forza Lambini Girls, che sono praticamente tra le band che quest'anno penso stanno boicottando tutto in pratica, perché purtroppo la possiamo invitare qui. Esatto, perché purtroppo appunto non c'è ancora e loro stanno facendo un grandissimo lavoro, non c'è ancora una attenzione agli sponsor che vengono accettati per queste grandi manifestazioni. Tra l'altro più sono musicali, grandi, e più sono sponsor problematici, perché sono sempre o grandi corporation o comunque appunto banche, cose insomma che in qualche modo sempre non sono pulite, va. Grazie a chi ha ricominciato a sostenere Onda Rossa, o ha cominciato, chi lo sa, durante questa trasmissione. Continuate durante le altre trasmissioni, non ve le annunciamo perché non sappiamo se ci saranno note cose città, visto che non le abbiamo ancora viste arrivare. Però vi ricordiamo il DigiRor Radio Abbonamento del 2024, che aspetta appunto il vostro sostegno. Sono rimaste quante tazze? Dicevamo tre tazze esclusive. Firmate la Paper Surgery, esatto. Grazie per i commenti su produzione dal basso, lasciati con i vostri contributi, continuate a farlo, insomma questa radio vive grazie a voi. Noi intanto vi salutiamo. Grazie a voi, l'obiettivo è ancora lontano, quindi aiutateci anche a diffondere la campagna, fatela girare, fate girare il link, fate girare le motivazioni per cui appunto Radio Onda Rossa chiede l'aiuto di tutte e tutti quelli che l'ascoltano e di tutte quelle che sono vicine, insomma, a questo, alla radio, e Perché c'è un'altra cosa? Sì, volevo dire un'altra cosa, cioè volevo lasciare con la notizia con cui abbiamo aperto, cioè che le forze di sicurezza in Egitto hanno arrestato 11 attiviste, giornaliste egiziane che stavano manifestando, e probabilmente non solo egiziane in questo senso, che stavano manifestando in solidarietà con la Palestina e il Sudan di fronte all'ufficio delle Nazioni Unite al Cairo. In questo momento, anche se il personale di UN Women Egypt aveva incontrato una delegazione di 3 manifestanti promettendo che nessuna sarebbe stata ferita, ci sono state aggressioni da parte appunto delle forze militari. Le aggressioni e gli arresti sono iniziati non appena queste militanti hanno lasciato l'ufficio, e fino adesso insomma non ci sono notizie sul loro stato, per cui insomma vi aggiorneremo quanto prima. Ed è uno di quei dei motivi per cui dovete restare all'ascolto di Radio Onda Rossa, soprattutto la mattina, dove ci sono le rassegne, i redazionali e tutti i commenti e le situazioni, alle situazioni politiche che è all'attualità. Sono le 20:10, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Buona serata con la radio. Ciao.